Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Una serie di attacchi terroristici squassa la capitale indonesiana Jakarta, incerto il numero delle vittime, la rivendicazione dell'ISIS a Istanbul, intanto altri arresti per l'attentato di ieri. Dieselgate dopo Volkswagen tocca a Renault, perquisizioni della polizia nelle sedi dell'azienda, PC sequestrati ai manager, il titolo perde circa il 20% in borsa e indagine negli Stati Uniti su Fiat per possibili dati truccati sulle immatricolazioni, il titolo perde oltre il 10%. Arrestato, ha confessato l'assassino della ragazza americana uccisa a Firenze, un uomo originario del Senegal, tra i due un rapporto consenziente. A quarto, il Movimento 5 Stelle non esiste più, dice Roberto Fico. Unioni civili, scontro nel PD, i cattolici chiedono di stralciare le adozioni da parte del partner. Scende la produzione industriale in novembre, il calo è dello 0,5%, su base annua cresce dello 0,9%. Grande attesa per gli annunci delle candidature agli Oscar, l'Italia punta su Morricone, Leonardo DiCaprio spera nella sua prima statuetta. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, 349-238-6666, sia per gli sms che per WhatsApp. In apertura ovviamente ne parleremo tra un attimo, gli attentati avvenuti questa mattina a Jakarta, come dicevamo è ancora incerto il numero delle vittime, ma subito vogliamo andare a parlare del settore auto, perché notizie e informazioni degli ultimi minuti, oltre che l'andamento dei titoli in borsa, i titoli coinvolti Fiat, Chrysler e Renault ce lo impongono. Lo facciamo con la nostra Valeria De Rosa per avere un quadro di due scandali che potrebbero colpire queste due grandi case automobilistiche. Valeria, buongiorno. Buongiorno Simone, ai nostri ascoltatori, davvero una debacle questa mattina per tutto il comparto. Allora cominciamo dall'Italia, cominciamo da Fiat. In questo momento in borsa c'è del 9,96%, questa mattina è già stato sospeso il titolo tre volte, è arrivata anche a perdere l'8%, in questo momento esattamente meno 10,03%. Che cosa è successo? Questa mattina si sono diffuse alcune voci relative ai dati che arriverebbero dalla Russia quest'oggi per le immatricolazioni. Ci sarebbe un calo nel 2015 del 36%, secondo alcuni analisti addirittura del 47%. Questo vorrebbe dire per la Russia tornare indietro al numero di immatricolazioni del 2010. Per FCA poi c'è anche un'ulteriore notizia che, come anticipavi, arriva dagli Stati Uniti, secondo la quale due concessionari avrebbero fatto causa a FCA perché avrebbero subito delle pressioni per falsificare dati. La falsificazione sarebbe avvenuta alla fine del mese e poi sarebbe stata corretta il giorno successivo. A questo proposito FCA non ha rilasciato alcun una dichiarazione perché fanno sapere, aspettano di avere tutta la documentazione per capire che cosa è successo e poi eventualmente parlare. Dicevamo una debacle per il comparto perché sempre questa mattina si è diffusa la notizia che nei giorni scorsi gli agenti della divisione antifrode della polizia francese hanno effettuato nei confronti di Renault in alcuni impianti produttivi delle perquisizioni. Secondo queste prime informazioni, l'ipotesi investigativa è che anche alcuni motori diesel Renault siano equipaggiati con un software che consente di eludere i controlli sulle emissioni e quindi un caso parallelo a quello di Volkswagen. Le forze dell'ordine avrebbero sequestrato alcuni computer ai dirigenti e in questo momento Renault in borsa cede il 17,7% al CAC 40, ovviamente influenzato anche il titolo Peugeot, anche qui siamo in calo. Ovviamente tutti i listini ne risentono, i cali sono oltre il 2%, il 2,24% per il FTSE MIB, a Parigi il CAC 40 c'è del 2,68%, il DAX il 2,6%. Per il momento è tutto. E grazie a Valeria De Rosa che tornerà ad aggiornarci su quello che sta succedendo sui mercati e sulle evoluzioni di queste vicende nel corso della trasmissione. Dunque andiamo adesso a parlare di terrorismo, iniziando dagli attentati di questa mattina a Jakarta. Per un punto abbiamo in studio Laura Bettini. Laura. Buongiorno, sì, c'è una rivendicazione finalmente arrivata perché si cercava un chiarimento su questo punto, ma restano molti vuoti nella ricostruzione di quanto accaduto questa mattina a Jakarta, dove un gruppo terroristico ha seminato il terrore in un quartiere centrale, quello di uffici, dove c'è la banca centrale anche indonesiana, alcuni palazzi delle Nazioni Unite. Questo gruppo ha fatto detonare degli esplosivi, forse anche delle cinture esplosive, ha ingaggiato sparatorie con la polizia per diverse ore e per questo poi la polizia indonesiana ha parlato di un attacco in stile Parigi. La rivendicazione, dicevamo, è stata lunga attesa, è arrivata attraverso l'agenzia di stampa AMAC, che è considerata affiliata all'ISIS. Il dispaccio in lingua araba parla di combattenti dello Stato islamico che hanno portato a termine un assalto armato contro stranieri e forze di sicurezza incaricate di proteggerli nella capitale indonesiana, così si legge. Secondo l'agenzia di stampa Reuters questa volta, i civili uccisi sono 7, gli attentatori morti 5, altri 4 sono stati arrestati. Tra i feriti figura un olandese che lavora per le Nazioni Unite, non ci sarebbero italiani coinvolti. Le esplosioni, quante sono state? Beh, c'è stata molta discussione, sembra siano state 6, una di queste proprio davanti a un caffè Starbucks che ha provocato almeno 3 vittime e la catena di caffetteria ha poi deciso di chiudere tutti i suoi locali della capitale fino a nuovo ordine. Il presidente dell'Indonesia, Joko Widodo, che si trovava lontano dalla capitale, è subito rientrato, ha condannato gli attentati, ha invitato la popolazione alla calma. L'Indonesia, infine, vogliamo annotare che è il più popoloso paese musulmano al mondo, è sostanzialmente moderato, ma ha vissuto, lo ricordiamo tutti, agli inizi di questo secolo una stagione durissima di attentati, quello terribile di Bali con oltre 200 morti, gli ultimi a Giacarta nel 2009 agli hotel Ritz e Marriott. E grazie Laura Bettini per questo aggiornamento. Tra l'altro più avanti andremo a collegarci con un italiano che vive a Giacarta per farci raccontare un po' com'è la situazione al momento. Noi restiamo a parlare di terrorismo, ma per occuparci delle indagini sull'attacco di Istanbul. Sentiamo gli aggiornamenti e poi commenteremo questi due fatti. Il giorno dopo l'attentato che ha provocato 10 morti e 15 feriti nel cuore di Istanbul a Sultanahmet, il premier turco Ahmet Davutoğlu aveva parlato di altri 4 arresti che si erano aggiunti a quello annunciato in mattinata. Oggi il ministro degli interni ha detto che il numero complessivo di persone arrestate è arrivato a 7. Nel frattempo Davutoğlu ha anche dichiarato che ci sarà un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle aree più affollate della città, una presenza più massiccia di uomini della polizia e un utilizzo più capillare di sistemi tecnologici, per esempio telecamere. Intanto in tutta la Turchia sono stati arrestati una 70 di uomini presunti membri di qualche cellula jihadista. Sempre il premier Davutoğlu ieri aveva evocato l'esistenza di attori segreti dietro l'attentato, frase sibillina che però non è difficile leggere come un riferimento a Bashar al-Assad. Ma la Turchia non deve fare i conti soltanto con lo Stato islamico o con il presidente siriano, da tempo nemico giurato di Erdogan. Questa mattina un'autobomba del PKK si è lanciata contro una stazione di polizia nel distretto di Çanakkale, nella provincia sudorientale di Diyarbakır. Nella violentissima esplosione che ha raso al suolo la facciata dell'edificio ci sono stati 6 morti, tra i quali 3 bambini, e altre 39 persone ferite. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. E per un commento abbiamo appunto in diretta l'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri, al quale innanzitutto do il buongiorno. Buongiorno Alberto, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, nel giro di 2 giorni colpiti 2 grandi paesi islamici. Questo è l'obiettivo dei jihadisti, ma non da oggi, dal primo momento. Cioè, il califfato è non soltanto gli occidentali, ma è diretto in primo luogo proprio contro i regimi, i governi a musulmani. E questo è proprio il motivo per cui è nato il califfato, ma anche quando Al-Qaeda, dopo aver lanciato la campagna dell'11 settembre con quegli spaventosi attentati nel 2001 a New York e Washington, poi deviò una parte della sua attenzione proprio sui regimi musulmani. E i jihadisti dell'ISIS fanno questo, cioè mettono in difficoltà e con le spalle al muro i regimi musulmani. Perché? Perché in qualche modo vogliono incuneare, come dire, un aspetto radicale ed estremista in società. Ed è quello che sta avvenendo in Indonesia, un paese dove l'Islam è stato sempre definito il wahhabi Islam, l'Islam colorato, l'Islam sorridente, perché molto tollerante, perché non attaccato alla Sharia o alla legge coranica, e invece da qualche tempo, da una 20 d'anni perlomeno, anche lì si sono lanciati i movimenti islamici. Abbiamo visto gli attentati di Bali del 2002 e del 2009, ma soprattutto si è vista l'avanzata in questi ultimi anni di questi partiti e movimenti islamici che si richiamano a versione conservatrice e retrograda dell'Islam, favoriti da soprattutto dall'avanzata, dall'arrivo di ulema, imam, predicatori dal Golfo, dai finanziamenti che arrivano dai paesi che in qualche modo sostengono questa versione conservatrice e anche radicale dell'Islam. Ti ringrazio, grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, per questo commento. Siamo alla svolta e passiamo alla cronaca italiana nelle indagini sull'uccisione della ragazza americana a Firenze, e poi su tutti questi temi torneremo, tanto sulle vicende dell'auto quanto su quelle del terrorismo. Ci colleghiamo con Ubaldo Cianciulli, appunto da Firenze, per un aggiornamento sulla conferenza stampa di questa mattina. Ubaldo, buongiorno. Ciao Simone, da stanotte Cheikh Diot Tidiane è sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà e si trova nel carcere di Stollicciano. Nelle prossime ore il giudice dovrebbe confermare il fermo in arresto. La svolta è arrivata stanotte quando i laboratori di genetica hanno stabilito che le tracce di DNA trovate su un preservativo e su un mozzicone di sigaretta gettati nel WC del bagno dell'appartamento di Ashley Olsen, oltre che sotto le unghie della ragazza, appartenevano al giovane senegalese clandestino. Gli agenti della squadra mobile che da alcuni giorni controllavano il sospettato sono andati nel suo appartamento nella zona di Campo di Marte, vicino allo stadio, e l'hanno prelevato per portarlo in questura. Alle 4 l'interrogatorio è terminato e il senegalese ha fornito risposte sostanzialmente ammissive, ha commentato il procuratore capo Giuseppe Creazzo. L'autopsia ha confermato che la ragazza è morta per strangolamento, ma purtroppo ha anche rivelato che aveva delle altre lesioni che da sole sarebbero state sufficienti a cagionarne la morte, cioè due fratture al cranio, per cui siamo in presenza di un'azione omicidiaria che andrà meglio ricostruita, ma che ha avuto sia un'azione contundente contro il cranio della ragazza e successivamente un'azione di strangolamento. Le indagini infatti proseguono per chiarire gli ultimi aspetti in attesa anche dei risultati degli esami tossicologici. Grazie Ubaldo Cianciulli per il momento e anche con te torneremo a collegarci più tardi per avere qualche dettaglio in più su tutta questa vicenda. Adesso noi passiamo a parlare di politica, tornando innanzitutto sulla vicenda di Quarto e sugli sviluppi anche delle indagini. Sentiamo. Il Movimento 5 Stelle su Quarto ha fretta di voltare pagina. Il caso è chiuso, ha sentenziato ieri Beppe Grillo e oggi Roberto Fico annuncia che il Movimento a Quarto non esiste più. Il sindaco Rosa Capuozzo è di fatto espulsa e i consiglieri comunali non hanno ancora ricevuto la mail, ma quel che conta, dice l'esponente grillino, è che di fatto l'amministrazione non è più pentastellata. Il sipario però non cala sulla vicenda della presunta tentata estorsione nei confronti del sindaco ad opera dell'ex consigliere Giovanni De Robbio. Pressioni e ricatti non denunciati, si è difesa la Capuozzo per tutelare il comune. Oggi il primo cittadino verrà risentito per la sesta volta dai magistrati, sempre nella veste di testimone. Martedì prossimo invece verrà ascoltata a Roma dalla commissione parlamentare antimafia. Il sindaco è determinato a non lasciare la guida dell'amministrazione. Anche la maggioranza dei consiglieri è dalla sua parte, ma il rischio è che arrivi per tutti l'espulsione. Intanto dal movimento la parola d'ordine è andare avanti, giocare d'attacco. Andremo sotto i comuni dove ci sono sindaci e consiglieri PD indagati. Sul blog viene anche rilanciata la notizia dell'arresto del sindaco Demme di Brent e della vicenda di Benedetta Renzi, sorella del premier, assessore in un comune il cui sindaco PD Renziano Di Ferro è sotto indagine. Ma non mancano le voci critiche sulla gestione della vicenda di Quarto anche da parte della base del movimento. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Restiamo sulla politica con un Partito Democratico spaccato sulle unioni civili. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, però c'è subito una replica di Monica Cirinnà, autrice del disegno di legge sulle unioni civili. Nel PD non c'è mai stata una posizione di guerra tra laici e cattolici, ci sono posizioni più conservatrici a fronte di posizioni più di rinnovamento. Questo è l'auspicio ovviamente di Cirinnà. Sono sicura che non ci saranno ulteriori rinvii, aggiunge, non chiedetemi come andrà il voto, ma l'Italia avrà nei tempi stabiliti una legge sulle unioni civili. Malgrado le sue parole, però, ieri 30 senatori cattolici del PD hanno dato parere contrario alla stepchild adoption, ovvero la possibilità di adottare il figlio del proprio partner in una coppia omosessuale, e alle 14.30 un gruppo di deputati PD presenteranno qui alla Camera la proposta che verterà probabilmente sull'affido rinforzato, ovvero l'adozione vera e propria dovrà aspettare al compimento dei 18 anni del figlio, una mediazione che secondo i cattolici Dem favorirebbe il minore che avrebbe gli stessi diritti, mentre il compagno del genitore naturale ne avrebbe avrebbe di meno. Il fronte cattolico è comunque diviso. Paola Binetti di Aurea Popolare si dice contraria a qualsiasi decisione sui minori. Intanto il sito gay.it pubblica le foto, le mail e i recapiti dei senatori democratici cattolici per una campagna di sensibilizzazione. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e siamo ai dati sulla produzione industriale di oggi che non sono per nulla buoni. Vincenzo Miglieta, buongiorno. Sì, buongiorno. Un andamento altalenante quello della produzione industriale nell'ultima parte dello scorso anno. Secondo l'Istat, a novembre l'indice è diminuito dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre è aumentato dello 0,9% sullo stesso periodo del 2014. A ottobre invece si erano registrati aumenti sia a livello congiunturale, più 0,5%, che tendenziale, più 2,9%. Il 2015 si avvia a chiudersi comunque in terreno positivo per la produzione industriale. I primi 11 mesi indicano una crescita dell'1,1%. Bene in particolare la fabbricazione di mezzi di trasporto, prodotti petroliferi raffinati e prodotti chimici. I settori penalizzati sono invece tessile ed abbigliamento, la fabbricazione quindi di computer, prodotti di elettronica e ottica, male anche industrie alimentari, bevande e tabacco. Altro indicatore interessante è quello analizzato dall'INPS, ovvero l'andamento delle ore di cassa integrazione. Si registra allora un calo 18,7% su novembre e del 52,3% su dicembre 2015, per un ammontare totale nell'anno superiore ai 600 milioni di ore. Un segnale positivo se si considera che dal 2009 in poi, in piena crisi, le ore autorizzate hanno sempre superato i 900 milioni. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, anche a te per questo aggiornamento. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Subito dopo ci ritroveremo, torneremo a parlare di Giacarta e ci collegheremo con Giacarta per capire qual è la situazione della capitale indonesiana nel giorno di questi attentati che hanno ucciso almeno a quanto pare 7 persone. Parleremo ancora del settore auto, la notizia con la quale abbiamo aperto, due indagini parallele di diverso tipo, una su Renault e una su Fiat Chrysler, stanno affossando in borsa i due titoli e un po' tutto il settore. Poi parleremo di doping, oggi dovrebbe arrivare un altro rapporto della WADA che si prospetta molto importante, che potrebbe scuotere ancora il mondo dell'atletica. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. In primo piano la vicenda del Dieselgate, perché dopo Volkswagen a quanto pare tocca a Renault, quantomeno sul fronte delle indagini. Perquisizioni della polizia nelle sedi dell'azienda, PC sequestrati ai manager, il titolo in borsa perde il 20%, mentre negli Stati Uniti scatta un'indagine su Fiat per i dati sulle immatricolazioni, su denuncia di due concessionari, il titolo perde in borsa adesso il 9,6%. Torneremo su questo tra poco. La serie di attacchi terroristici nella capitale indonesiana Giacarta, incerto il numero delle vittime, la rivendicazione arriva dall'ISIS a Istanbul, altri arresti intanto per l'attentato di ieri. È arrestato, ha confessato l'assassino della ragazza americana uccisa a Firenze, un uomo originario del Senegal, tra i due un rapporto consenziente. A Quarto, il Movimento 5 Stelle non esiste più, lo dice Roberto Fico, appunto, del Movimento 5 Stelle. Sull'Unione Civile intanto scontro nel PD, i cattolici chiedono di stralciare le adozioni da parte del partner. Saluto Daniele Mangiola, che è manager di un ristorante wine bar a Giacarta, ristorante wine bar che si trova a una decina di minuti dal luogo dell'esplosione. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Che situazione c'è in città al momento? Al momento sembra più tranquilla, almeno dove si trova il mio ristorante. Iniziano ad arrivare i clienti per cena, quasi come se non fosse successo niente. Però da quel che so, della zona in cui è successo l'attentato, ci sono quasi tutti i locali e uffici chiusi da stamattina. Non so quando riapriranno tutto quanto. Le strade sono bloccate. Almeno fino a tardo pomeriggio erano bloccate, adesso non so. Com'è stata la mattinata per voi? Ma guarda, io stavo andando al lavoro e ho sentito la notizia mentre ero per strada, abito abbastanza vicino. Arrivare nel luogo non si poteva perché comunque hanno bloccato subito la strada, è stata bloccata dalla polizia. Ho ricevuto anche il messaggio dall'ambasciata italiana che diceva di stare lontani dalle zone più traffico, con più popolazione, per cui poi a quel punto sono andato al lavoro. Ho visto che ci sono state varie esplosioni, calcola che la zona in cui c'è stato l'attentato è una strada molto grande che porta dal nord a sud della città, in pratica taglia la città in due, vicino ai centri commerciali più famosi e vicino all'ufficio delle Nazioni Unite e a varie ambasciate come quella giapponese, quella spagnola e c'è anche quella statunitense in zona. Il building che è stato colpito, in pratica il nome Starina, è uno piccolo shopping center, hanno colpito uno Starbucks, in pratica una caffetteria. Prima di colpire la caffetteria hanno attaccato una piccola stazione di polizia che c'è lì davanti. Hanno attaccato i poliziotti, poi si sono spostati alla caffetteria. So che una persona dei terroristi si è in pratica fatta saltare colpendo i poliziotti. C'erano dei corpi di un paio di civili, però non so se fossero su questo non ci sono ancora dettagli sul numero delle vittime. Comunque siamo felici che quantomeno la situazione stia tornando alla normalità, anche per i vostri affari evidentemente. Grazie a Daniele Mangiola, che è un italiano che vive a Giacarta, manager di un ristorante e wine bar, e una buona giornata. Noi adesso passiamo ad occuparci di doping, perché tanto l'abbiamo fatto nei mesi e nelle settimane scorse. Ebbene, oggi dovrebbe arrivare il secondo capitolo, per così dire, di un rapporto importante che riguarda l'atletica e che potrebbe scuoterla ulteriormente. Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno Simone, sì, l'appuntamento è per le 15 in un hotel di Monaco di Baviera. Dick Pound, il capo, ex presidente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, è ora capo di quella commissione investigativa che, lo ricorderete, il 9 novembre scorso aveva reso pubblico quel rapporto shock accusando la Federazione Atletica Russa di doping di Stato, no? Rapporto che poi aveva portato a quella che attualmente è ancora in vigore, la sospensione dell'atletica russa, e non sappiamo ancora se i russi saranno presenti ai giochi di Rio 2016. Ebbene, oggi c'è la seconda parte di quel rapporto, senza dimenticare che nel mezzo c'è stata poi la vicenda che ha coinvolto all'Atere i principali campioni dell'atletica italiana, no? Per una vicenda di controlli posticipati, saltati, eccetera eccetera. Ebbene, seconda parte che Pound ha forse enfaticamente annunciato come ancora più sconvolgente della prima. Ebbene, le indiscrezioni dicono che da un lato potrebbe essere ancora più fatta luce su quello che era il sistema corruttivo nella Federazione Atletica Mondiale e che sarebbe di fatto radicato fin dall'inizio degli anni 2000, e da qui potrebbe arrivare la squalifica a vita dell'ex presidente della IAAF, il senegalese Diack. Ma certo, potrebbero essere chiamate in ballo anche altre federazioni, perché se si tocca la Russia tutti gli altri sono toccabili. E ci sono indiscrezioni che circolano su quali siano queste federazioni. Si fanno dei nomi pesantissimi: Kenya, Etiopia, Turchia, Marocco, cioè di fatto tutto il mezzofondo e il fondo mondiale, grandissimi, certo, campioni. Non sappiamo appunto fino in fondo quelli che saranno i contenuti del rapporto, ma anche non dovessero essere chiamati in ballo ora, cosa accadrà da qua a Rio? Sicuramente, insomma, orologi puntati alle 15, perché da lì capiremo quella che sarà la strada dell'atletica mondiale e forse non solo verso i giochi di Rio, che, lo ricordo, iniziano il 5 agosto. Allora ti ringrazio, grazie a Dario Ricci, e ovviamente restate sintonizzati su Radio 24, perché appena arriveranno notizie su tutto questo ve ne daremo informazione. Noi adesso torniamo ad aggiornarvi su quello che sta succedendo sui mercati per quanto riguarda i titoli del settore auto, e a riassumere brevemente con la nostra Valeria De Rosa, perché si fosse messo in ascolto solamente adesso, quali sono i punti che stanno facendo crollare soprattutto il titolo Fiat, il titolo Fiat Chrysler e il titolo Renault. Valeria, eccoci. Allora, ben ritrovati. Partiamo questa volta da Renault. Questa mattina si sono diffuse le indiscrezioni secondo cui gli agenti della della divisione antifrode della polizia francese hanno effettuato nei giorni scorsi una serie di perquisizioni in alcuni impianti della Renault e l'ipotesi è che anche alcuni motori diesel Renault siano equipaggiati con un software che consente di eludere i controlli sulle emissioni e quindi qui un secondo caso Volkswagen. Sarebbero stati sequestrati alcuni computer ai dirigenti di Renault e in questo momento Renault perde sul listino francese, sul CAC 40, perde il 15,87%. Male anche ovviamente Peugeot che cede quasi 7 punti percentuali, giù anche Volkswagen che in questo momento cede poco più del 3%. Questo ovviamente ha influenzato tutto il comparto che già questa mattina era partito molto male perché anche in questo caso si sono diffuse indiscrezioni relative al dato che arriverà comunque oggi dalla Russia per le immatricolazioni del 2015. Secondo alcuni analisti si arriverebbe ad un calo compreso tra il 36% e il 47%, quindi la Russia tornerebbe indietro di 5 anni per quanto riguarda le immatricolazioni. Fiat in questo momento cede il 10,57%, questa mattina è stata sospesa e poi riammessa in contrattazioni per ben 4 volte, anche perché nel caso di Fiat c'è anche un ulteriore fatto che arriva dagli Stati Uniti, perché anche qui secondo un sito americano specializzato due concessionari avrebbero fatto causa a FCA perché accusano pressioni per aver falsificato dei dati alla fine del mese, dati poi corretti il giorno successivo. A questo proposito FCA non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché aspettano di avere tutta la documentazione per capire in realtà davvero che cosa è successo. Ovviamente i mercati hanno risposto tutti malissimo, cali intorno al 2-3% per tutti i listini europei. Ti ringrazio, grazie a Valeria De Rosa e proprio di mercati torneremo a parlare tra un attimo sempre con l'appuntamento con i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, quindi ci fermiamo, ci ritroviamo per la borsa nella seconda parte della trasmissione, torniamo a parlare di Indonesia, questa volta più che con la cronaca con un commento, torneremo a parlare della vicenda della ragazza uccisa a Firenze. E poi parleremo di Oscar, ve l'abbiamo detto nei titoli, anche oggi, anche su questo, così come sul rapporto sull'atletica, c'è una grande attesa, ma di diverso tipo, per capire quali saranno le cinquine di candidati. Ovviamente noi speriamo per Ennio Morricone, a tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, le principali notizie: il Dieselgate dopo Volkswagen tocca a Renault. Secondo quanto riferisce il maggiore sindacato di Francia, ci sono state perquisizioni della polizia nelle sedi dell'azienda, PC sequestrati ai manager e crolla il titolo in borsa, così come crolla Fiat per un'indagine negli Stati Uniti per i dati sulle immatricolazioni. La serie di attacchi terroristici nella capitale indonesiana Giacarta, incerto il numero delle vittime, a quanto sembra 7, la rivendicazione arriva dall'ISIS, a Istanbul intanto altri arresti per l'attentato di ieri. Ha confessato l'assassino della ragazza americana uccisa a Firenze, un uomo originario del Senegal, tra i due ci sarebbe stato un rapporto consenziente e poi una lite. A quarto il Movimento 5 Stelle non esiste più, dice Roberto Fico, esponente del cosiddetto direttorio dei grillini. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare nell'ordine ancora di Indonesia, dell'attentato di questa mattina a Giacarta, dell'omicidio di Firenze che a quanto pare ha una soluzione, è stato preso quello che si ritiene essere l'assassino, e poi per parlare di Oscar. Iniziamo dall'Indonesia. Paolo Magri, direttore dell'ISPI, buongiorno. Buongiorno a voi. Attentato di oggi, si diceva una serie di attentati in realtà nella capitale indonesiana. Indonesia, che lo ricordiamo, è il paese col più alto numero di musulmani al mondo. Che cosa rappresenta questo attentato secondo lei, Magri? Beh, diciamo che fino a qualche mese fa, qualche anno fa, questo attentato non avrebbe probabilmente fatto notizia da noi, perché era nella graduatoria degli attentati a cui siamo abituati, in parti lontane del mondo sono poche persone che hanno perso la vita. In questo momento invece colpisce perché è un attentato simile a quello che abbiamo visto in altre parti del mondo, per come è congeniato ci ricorda Parigi, e c'è una rivendicazione del cosiddetto Stato Islamico, e quindi ci fa pensare che anche in Indonesia, paese che in passato ha avuto frequenti attentati terroristici riconducibili all'Al-Qaeda, l'ISIS ha messo un suo piede, probabilmente con l'affiliazione di qualche gruppo locale, e quindi ci fa capire l'entità del problema che stiamo fronteggiando. Che sta diventando sempre più globale, evidentemente, cioè non colpisce solamente le aree a noi vicine, la Siria, l'Iraq, la Libia, un pezzo del Maghreb, però va a colpire anche in luoghi molto lontani da noi. Molto lontani, noi sappiamo che ci sono dei piccoli gruppi anche in Malesia, in Thailandia, ma colpisce l'Indonesia, perché l'Indonesia, lo ricordava poco fa, è il paese islamico più grande al mondo, è anche un paese dove c'è un Islam estremamente moderato, c'è questa versione di Islam, l'Islam dell'arcipelago, che per come è configurato il paese ha attenuato anche alcune rigidità dottrinali, non parlo di islamismo radicale ovviamente, ma rigidità dottrinale dell'Islam, e quindi è un paese particolarmente moderato anche da questo punto di vista. Però ci sono da anni, ricordiamo l'attentato di Bali, gli attentati al Ritz, al Marriott, ad Alberghi, che hanno provocato anche 200 morti, quello di Bali del 2002, però erano cose diverse, era Al-Qaeda, non una serie di atti organizzati in un contesto come quello che stiamo vivendo, dove vediamo spuntare come funghi paesi dove questo terrorismo attecchisce. Grazie a Paolo Magri, direttore dell'ISPI, per essere stato con noi. Torniamo a collegarci con Firenze, con Ubaldo Cianciulli, il nostro collega che sta seguendo la vicenda della ragazza americana che è stata uccisa. Nella notte c'è stato un arresto, un uomo originario del Senegal, immigrato clandestino, che avrebbe tra l'altro ammesso una serie di responsabilità. Cerchiamo ancora di fare un punto, Ubaldo, eccoci qua. Allora, sì, Simone, come sarebbero andate le cose? No, allora di quello che devi dire e poi raccontaci come sarebbero andate le cose. Allora, ti dico che diciamo, il procuratore capo Giuseppe Creazzo oggi ha tenuto questa conferenza stampa e ha detto che si è reso necessario stringere velocemente il cerchio, anche perché il giovane senegalese, che da giorni era tenuto sotto controllo, aveva prima diminuito le proprie uscite da casa e poi, secondo gli inquirenti, sembra che si stesse preparando a lasciare la città. Ieri sera sono arrivati i risultati degli esami del DNA, che hanno dato riscontri positivi. A mezzanotte il giovane senegalese è stato prelevato dal suo appartamento e portato in questura per l'interrogatorio, che alle 4 di stanotte è terminato. E a questo punto io farei sentire la voce del capo, del procuratore capo Giuseppe Creazzo, che ha illustrato il quadro accusatorio. Aspetta, non ce l'abbiamo sotto mano l'audio di Creazzo, quindi ti prego di riassumere tu. E allora riassumo che... diciamo che il giovane senegalese Cheikh Tidiane Diop ha avuto una serie di riscontri probatori. È stato visto uscire dal locale Monte Carlo, dove aveva passato la serata insieme ad Ashley Olsen. È stato visto entrare poi nel suo appartamento e, come se non bastasse, il cellulare della ragazza che era sparito è stato rinvenuto nella disponibilità del senegalese, e nel cellulare lui aveva inserito la propria SIM card e l'aveva anche utilizzata. È chiaramente un errore gravissimo, cioè, diciamo, dal punto di vista criminale, per così dire. Allora, Ubaldo, abbiamo recuperato la voce, quindi forse possiamo sentirla del procuratore capo. Sentiamo. A suo carico sono stati raccolti, riteniamo, gravissimi indizi di colpevolezza, che consistono riassuntivamente nel fatto che alcuni testimoni hanno visto il ragazzo allontanarsi con Ashley uscendo dalla discoteca, che alcuni testimoni hanno visto il ragazzo entrare a casa della ragazza con la ragazza la mattina presto. Questo è stato riscontrato dai filmati delle telecamere. E in più il ragazzo ha asportato il telefonino di Ashley e ha inserito la propria scheda nel telefonino di Ashley e lo ha utilizzato. Ubaldo, per chiudere, ci sono due versioni contrastanti, una della procura e una del ragazzo. Cioè, il ragazzo racconta che sarebbe stato un incidente. Diciamo che il procuratore un po' non l'ha escluso, infatti dice che l'inchiesta è completa al 90%, mancano ancora alcuni particolari, però... la ragazza dall'autopsia ha riportato due fratture piuttosto importanti al cranio, probabilmente La sua testa è stata sbattuta violentemente contro il muro. E quindi non a causa di una spinta, e questa sarebbe la versione della persona arrestata. Un po' eccessiva. Ti ringrazio, grazie a Dubaldo Cianciulli in diretta da Firenze per questo racconto sul fatto avvenuto questa notte. Noi, prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, e poi come sempre sentire il nostro Mario Platero, abbiamo in studio Marta Cagnola, perché attendiamo tra meno di un'ora le cinquine degli Oscar, Marta. Sì, 14.30, anzi 14.25, sono molto puntuali nell'annuncio. Saranno John Krasinski, Ang Lee e Guillermo del Toro a darci le cinquine per tutte le categorie, tranne il miglior film. Sono molti di più, sono una decina i candidati per i miglior film. I nomi che circolano sono Revenant, Joy, Carol, Il Ponte delle Spie, Il Caso Spotlight, Room, ma anche The Martian, The Hateful Eight, Tarantino, La Grande Scommessa, magari qualcosa per Star Wars, chissà. L'Italia, visto che noi siamo sempre appassionati, vogliamo sempre sapere cosa succede per gli italiani. Ci piace. Non corriamo per il miglior film straniero, perché il film di Caligari non è entrato nella shortlist. C'è un italo-tedesco, Giulio Ricciarelli, con Il Labirinto del Silenzio, quindi possiamo fare il tifo per lui. Possiamo fare il tifo perché entri in nomination Ennio Morricone, che ha vinto il Golden Globe per il film di Tarantino, e magari per qualche candidatura nelle varie categorie per Youth di Sorrentino. Senti, e poi parliamo invece di italo-americani, perché ce n'è uno in particolare che sogna l'Oscar da anni, ed è Leonardo DiCaprio. Oscar a Leonardo DiCaprio, perché A, non sa più che faccia fare quando non gli danno la statuetta; B, se lo merita. Da Revenant è veramente il film favorito per queste statuette, probabilmente sarà quello che prenderà più candidature. Sarà Leonardo DiCaprio contro tutti quest'anno. Vedremo che cosa succederà dunque per quanto riguarda appunto gli Oscar. L'attesa è ancora breve e ovviamente anche su questo vi aggiorneremo. Intanto io vi voglio aggiornare, prima di andare a sentire cosa succede sulle strade e poi Mario Platero, sull'andamento in borsa dei titoli dell'auto. È la notizia con la quale abbiamo aperto per il nuovo scandalo che investirebbe Renault con perquisizione degli uffici, un possibile nuovo Dieselgate che in questo caso riguarderebbe Renault in questo momento in borsa perde il 16,28%, e poi Fiat Chrysler, due concessionari negli Stati Uniti hanno denunciato di aver subito pressioni per gonfiare il numero di vendite. Fiat Chrysler perde l'8%. Andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.